Yo. E allora, come ti sbagli, la tua radionina è sempre sintonizzata sugli 87.9 del Radio Onda Rossa, sin. La radio di chi se la sente? Te la senti, compà? Allora, oggi puntata specialissima, come si chiama? Attica del Soul. Ebbene sì, famo una lunga, ci siamo gemellati, vabbè, un po' come al solito abbiamo allargato. Io e te se gemellamo da 30 anni, noi che qua, scherzi a parte, comunque ci sembrava giusto far capire perché tanta musica poi ha un filo conduttore in comune, sì. si parlerà di grandi donne, di grandi musicisti, tutti però partendo dallo stesso principio, quello della resistenza, della rivendicazione di libertà, di riconoscimento, di spazi nel mondo del popolo nero, che comunque dagli stati del Nord America fino alla Patagonia è stato estirpato dall'Africa per essere poi sparso in questo continente. Per il continente è stata un'enorme fortuna, perché tutto questo si è riversato in ricchezza letteraria, poetica, di musica, di ritmi, di canzoni, di religioni, di mischioni. Quindi insomma sicuramente ci si guadagna. Chi forse ne ha guadagnato un po' nero è stata quelle tante generazioni, direi quasi 500, almeno 500 anni di generazioni di africani strappati dalla loro terra, trattati come bestie, venduti come schiavi. E questo non c'è mai stata una differenza in questo. Lo facevano gli spagnoli delle coste del Sud America come lo facevano gli schiavisti americani. Venduti ai mercanti, sold out to the merchant ships. Vogliamo far arrossire l'ospite anche, perché insomma voi siete in due su tre. Io sono da sola, non so se sono esattamente completamente in pieno delle mie facoltà, quindi diciamo che io sono tre quarti e voi siete due terzi. Sì, abbiamo Giacomo Mazzo, la voce di Percezione Sesto Senso, abbiamo già ospitato da questi microfoni e oggi ci è venuto a trovare perché comunque questa puntata, diciamo, speciale è anche dedicata a una grande donna, vero Sonia? Sì! Sì, io pure. Mi ero allontanata un attimo dal microfono. Assolutamente, in questa puntata parliamo finalmente di Maya Angelou, attivista, poeta, performer, attrice e mille altre cose africano-americana, veramente un baluardo di quella cultura africano-americana di cui parlavamo poco fa, insomma, le gemme portate dalla schiavitù dall'altra parte dell'oceano. E quindi le dedichiamo sicuramente un po' di spazio per ricollegarci poi ai nostri, insomma, discorsi sulla musica, l'arte, la letteratura. Quindi partiremo dal Nord America per scendere piano piano, passare dalla Giamaica, motivo per cui anche così Giacomazzo ha avuto le sue idee geniali, diciamo che è stato un po' il promotore di questa idea da seguire, no? Quindi sì, noi ci siamo fatti trascinare. Pure perché appunto questa piccola grande radio si sente un po' in giro per questo nostro stivale, quindi da Adri è spesso in ascolto. Esatto, esatto. Diciamolo, sì, riga. Cioè, perché la radio si piglia anche ad Adri. Tra i monti e il mare arriva onda rozza, eh. Esatto, lontano, oltre la schiena del sole. È un'ottima, è un'ottima iniziativa questa, mi sembra. E infatti, che la radio sia sensibile a queste spinte che vengono anche un po', come dire, buttate lì e poi raccolte. E poi raccolte, acchiappate al volo, sì, e sì, lievitate, direi che un po' è andata così. Poi accompagnato dal room dell'89, direi che è venuta fuori una preparazione geniale, direi, eh? Molto vintage, sì. Oddio, che è sta cosa? Federica Piera Rumba Vintage. 87.9 di Radio Onda Rossa. El pueblo se tiene que unir para luchar para que la crisis no la pague el pueblo. Nosotros queríamos la mitad del poder, no lo queríamos todo. Tutti giovedì dalle 17 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Todos los jueves a las 17, la esquina del sur, sube frecuencia de Radio Onda Rosa. Cioè, che poi che emozione, veramente stiamo a parlare di questa sigla che è la più bella sigla di tutte le trasmissioni, la più meglio di tutte, sì. Ah, allora che faccio? Parto? Me la squatto subito? Mi ha proprio subito di qualche minuto di attica? No, io voglio mettermi un pezzo però, scusami, ma vorrei, lo sai, sono particolarmente affezionato perché è un pezzo che mi ha dato un'amica. Una volta mi ha passato sull'hard disk. Oh mamma mia! Para mi tierra Che poi Marta, quando mi hai dato sto pezzo, io sono impazzito. Mi ricordo, stavo andando in America, ho detto: ammazza, ma questa è una figata, ma volevo fare qualche cosa per spingere. Dice: no, no, non gli serve niente, sta tranquillo, sta bene nella giungla. No, beh, nel senso che è una bambina, è stato un po' un fenomeno, è esplosa come un fenomeno perché era, diciamo, questo tipo di canzoni sono le canzoni del sottoproletariato, in questo caso dell'Argentina. E pensiamo un po' alla nostra musica, non ti dico neanche melodica napoletana perché poi a noi ci vengono in mente solo le cagate, però effettivamente c'è quella sottomusica del sottoproletariato che appunto che si vende nei mercatini perché nei negozi di dischi non la trovi, e il Sud America vive di questo, no? E lei è stata un fenomeno pazzesco, però appunto perché io non la voglio far venire qua? Perché a 10 anni devi stare a casa, devi andare piano, non te devi far vendere, non lo so, io c'ho molto questo terrore poi, no? E in più lei viene pure abbastanza da un posto che non è esattamente moderno, quindi ecco, io all'idea di piazza creatura, portarla qua e fai fare un concerto, mi sentivo un po' veramente, ecco, mi sembrava un po' troppo. Rimane il fatto che però appunto lei rappresentava tutti i bambini delle strade dell'Argentina, rappresentava tutti i figli del cartoneros dell'Argentina, e quindi è chiaro che sentirla cantare strappava lacrime a gogo, e questo direi che le fa onore, insomma. No, che bello, a me mi sono rimaste le parole: cumbia para mi terra, cumbia para mi amor. La cumbia è così, la cumbia è sia il mezzo con cui si narrano le storie, un po' come la salsa, no? si narrano le storie, un po' come il Corriere in Messico, si raccontano le storie, la quotidianità, sia la musica con cui si fa la corte, sia poi soprattutto come ballo, non è un ballo diciamo tradizionalmente, è un ballo che si fa in due, un po' pensiamo forse alla nostra tamurriata, alla danza dei coltelli, quindi non è un ballo di coppia in cui ci si avvinghia e si balla, è un ballo in cui si comunica ballando, si rappresenta la situazione un po' come la rumba cubana, quindi si ripercorrono dei momenti del mercato piuttosto che delle barche che arrivano e le donne accolgono i pescatori, quindi diciamo è estremamente comunicativa. Poi certo nella sua storia, nella sua evoluzione è diventata anche la cumbia romantica della serenata piuttosto che la cumbia tecno, insomma, di cui io ogni tanto vi obbligo. Perché ogni tanto io cumbia legge pure. Abbiamo fatto un fallo di Giacomazzo ieri con Santa Massa Cumbia, poverino. È ancora tutto pisto e triste. Lindo barrio querido. Chambacú, chambacú. Mi tierra que no la olvido. Beh, comunque in questa trasmissione così jamming, ovviamente un pensierino a quel Robert Nesta, sì, un po' musico, un po' profeta per gran parte del sud del mondo. Questo è un lavoro di Bill Haswell, che ha avuto le tracce originali dalla Island per questo incredibile album remix. Dreams of Freedom, Robert Nesta. Trillino mai quasi convinto. Sì, ancora Trillino insiste, allora dobbiamo rimetterla da capo per forza. E vabbè, va. Che dire, ci sta, ci sta. Sì, io, sapete, Robert Nesta non gliela posso fare. Ma dopo ne riparliamo. Non gliela posso fare, non gliela posso fare. No, veramente questo è uno di quei dischi usciti postumi che hanno colto l'essenza anche della musica di questo personaggio e di tutta, diciamo, la banda, come si muoveva, la grande banda Wailers. Trio Clock, Rebel Music, questa è Radio Onda Rossa, Soul Adventurous. Musica cammina. La l'anima s'avvicina, sin. E allora, a proposito di anime ribelli, questa Attica del Soul, diciamo, è tutta dedicata a Maya Angelou. Sì, Maya Angelou è morta il 28 maggio scorso a 86 anni nella cittadina in cui viveva, nella Carolina del Sud, e quindi in questa puntata, nella prima parte di questa trasmissione mescolata tra Attica Blues e La Eschina del Soul, parleremo della sua vita, leggeremo i suoi versi e racconteremo appunto un personaggio che merita di essere ricordato per la sua forza, la sua arte, le sue parole che infondono appunto fiducia in se stessi, sicurezza, e sono insomma un'arma, uno strumento di resistenza. Maya Angelou è stata soprattutto una poetessa, ma nella sua vita ha fatto di tutto: è stata una ballerina nei nightclub, una prostituta, una performer, ha recitato anche nell'opera Porgy e Bess, è stata un'attivista per i diritti civili degli africani americani negli anni 60, ha collaborato con Martin Luther King e poi ha vissuto in Egitto e in Ghana durante il periodo della decolonizzazione, dove ha lavorato come giornalista, ma è stata anche produttrice, sceneggiatrice, insomma ha fatto cuoca, cameriera, tranviera, cioè se sì, andate a vedere una delle prime, la prima tranviera nera nella città di San Francisco in cui ha vissuto per un certo periodo, insomma ha fatto veramente di tutto, è anche stata madre giovanissima, ha avuto 17 anni mi pare addirittura, una vita veramente molto complicata, insomma, in cui ha sperimentato il razzismo, la violenza, e parleremo di tutto questo e leggeremo appunto alcuni dei suoi versi, perché la sua opera e il suo attivismo, la sua militanza ha veramente influenzato migliaia di persone negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Tra l'altro dagli anni 80 in poi lei ha insegnato nelle università e ha fatto migliaia di conferenze in tutto il mondo. Si faceva tipo 80 conferenze all'anno, quindi cioè, voglio dire una ogni 4-5 giorni in giro per il mondo, ma poi ha avuto, leggevo, non so quanti, tipo 30 dottorati o laureati, sì, insomma poi parleremo di tutti i titoli, i premi che ha vinto, che sono veramente impressionanti, ma credo che quello che colpisca di più è proprio la sua capacità di infondere speranza, quello che diceva lei, che nelle sue poesie, che appunto cercava di rappresentare il sogno e la speranza delle donne che sono state, le donne nere che sono state rese schiave, insomma le sue parole, sia che fossero scritte su un foglio di carta o pronunciate dalle tavole di un palcoscenico, o cantate in una canzone o pronunciate con forza al microfono, erano sempre parole accese, erano sempre parole che accendono, in qualche modo esprimeva una grandissima fiducia in se stessa quando diceva che puoi svalutarmi nella storia, ma ancora come la polvere io mi solleverò, e poi ancora ballava generando sempre qualcosa di prezioso in ogni istante, infatti danzava come se avesse diamanti che si incontrano nel luogo in cui si incontrano le cosce, ancora sfidava tutti gli stereotipi sessisti che affermavano l'idea che una donna e soprattutto una donna nera non potesse essere adatta a lavorare, a guadagnare soldi, a gestire il denaro, e diceva infatti io cammino come se avessi pozzi di petrolio che pompano nel mio soggiorno. Rebel music scene. Soul rebel. e in questa attica del soul comunque è la prima traccia, perché poi Bob Marley non la considero una traccia, è sempre un Dappy Conqueror, diciamo, anche nella musica è proprio Africans, perché poi alla fine gira che te rigira, vi è tutto da listen. History, use our goodness and nourishment in the name of missionary. Sister Necca. Ok, Trillino, avete quasi convinto, sin? Africans, Africans. Perché poi alla fine se la senti, se te la senti, l'Africa è ovunque intorno a te, sì, ovunque, nelle cose, nelle materie prime, nel, è ovunque, se ce l'hai proprio accanto. They came and they took all we had possessed. They have to take the abuse and they have caused a present state within children history. Use our goodness and nourishment in the name of missionary. Lies to us, blind us, they saved us, misplaced us, strengthen us, sadden us, then they replaced us. Now we got to learn from pain. Now it's time to us to gain some recognition. If we stop blaming, we could get a better condition. Wake up, world. Wake up, world. Wake up and stop sleeping. Wake up, Africa. Wake up and stop blaming. Wake up and stop blaming. Open your eyes. Tu puoi scrivere di me nella storia con le tue bugie amare e contorte, puoi calpestarmi nella sporcizia, ma io, come la polvere, mi solleverò. La mia sfacciataggine ti irrita? Perché sei assediato dalla mia malinconia? Perché io cammino come se avessi pozzi di petrolio che sgorgano nel mio salotto, proprio come le lune e i soli, con la certezza delle maree, proprio come la speranza che alta si slancia. Ancora io mi solleverò. Volevi vedermi spezzata, con la testa china e gli occhi bassi? Le spalle cadenti come lacrime, indebolita dal mio pianto che viene dall'anima. La mia superbia ti offende? Non prendertela così male. Perché io rido come se avessi miniere d'oro scavate nel mio cortile. Puoi spararmi con le mie tue parole, puoi ferirmi con i tuoi occhi, puoi uccidermi con il tuo odio, ma io, come l'aria, mi solleverò. È la mia sensualità a disturbarti? Ti arriva come una sorpresa il fatto che io danzi come se avessi diamanti all'incrocio delle mie cosce? Fuori dalle capanne della vergogna della storia mi sollevo. Su, da un passato che ha le radici nel dolore, mi sollevo. Sono un oceano nero, ampio, che balza, zampillando e gonfiandomi. Genero nella marea, lasciando alle spalle notti di terrore e paura. Mi sollevo. In un'alba che è meravigliosamente chiara, mi sollevo. Portando i doni che i miei antenati mi diedero, io sono il sogno e la speranza dello schiavo. Mi sollevo. Mi sollevo. Mi sollevo. E questa era And Still I Rise. Ancora io mi sollevo, la famosa, la poesia più famosa di Maya Angelou. Bomboras, che emozione mentre la leggevate, mi vedevo proprio là con questi pozzi di perone. Che lo dici? Nel salone, cioè io poi veramente ma vivo con così. I diamanti che sgorgano dalle cosce. Sì, sì, perché tu pensi una cosa e quella è. Diciamo che sarebbe perfetta per fare il testo di una canzone. Serve qualcuno a cui gli regge di cantare una cosa, cioè, del genere. Cioè, anche perché And Still I Rise, questo verbo non rise, cioè praticamente ricorre a una formula che c'è in tutte le canzoni. Rise up, uprising, the rising sun, no? Rise. Sono tutte, cioè, le sollevazioni, rise, le rivolte, rise, che ricorrono in tutte le canzoni della musica, la storia della musica nera. Ah, e poi volevo dire una cosa, che questa poesia, insomma, oggi leggiamo solo questa anche per ragioni di tempo, ma anche perché è veramente difficilissimo trovare delle buone traduzioni italiane delle poesie di Maya Angelou, perché sono stati tradotti solo 3 dei suoi libri. Invece è stata una scrittrice prolifica, insomma, poi ne parleremo. Ha scritto montagne di autobiografie, no, 7 autobiografie ha scritto, cioè, che poi ovviamente tutto quello, diciamo, che è la critica mainstream le ha provate a etichettare come romanzi, capito? Perché sono talmente fantasmagoriche, cioè, sì, è come, sono assurde, insomma, le storie della sua vita sembrano anche poco credibili, no? Però su questa cosa io vorrei fare una chiosa, perché una chiosa? Sì, una chiosa, fare una chiosa. Cercavo, insomma, anche per preparare questa trasmissione, no, le biografie, le notizie, insomma, che si sono succedute nei giorni immediati dopo la sua morte, e vedevo, insomma, una differenza tra gli articoli scritti in italiano e quelli scritti in inglese, ma insomma in generale c'era questa cosa per cui lei è stata una scrittrice prolifica, ha avuto tantissimo successo, una delle prime scrittrici africane americane a diventare veramente autrice di bestseller, e quindi un successo sul mercato anche strepitoso già dalla sua prima autobiografia. Eppure è stata criticata tantissimo proprio perché le sue opere, come dicevi tu, non venivano prese sul serio, perché non venivano considerate all'altezza di quella che è, insomma, la vera la poesia americana, più i livelli più alti della poesia americana, e soprattutto, ecco, c'è un equivoco di base su queste che appunto noi abbiamo definito autobiografie, e in inglese però molto spesso le definiscono memoir, che è proprio un altro genere letterario rispetto all'autobiografia, che è un genere che è stato portato avanti negli ultimi decenni soprattutto proprio da esponenti di quelle che sono le minoranze negli Stati Uniti, per cui il memoir è un genere letterario che si distingue nettamente dall'autobiografia, perché l'autobiografia è un genere letterario, diciamo, celebrativo, che in genere si utilizza per celebrare la vita di personaggi illustri che hanno fatto la storia, quella con la S maiuscola, e quindi è un genere che deve avere anche tutta una serie di caratteristiche specifiche, oltre a questo fatto di celebrare appunto le grandi qualità di un personaggio storico, anche far vedere, insomma, solo i lati positivi ovviamente, ma deve anche avere una corrispondenza diretta con la storia, quindi deve raccontare dei fatti oggettivi, mentre il memoir è un genere che si basa non tanto sulla verità oggettiva, ma sulla verità soggettiva, cioè su quella che è l'autenticità dell'esperienza delle persone, per cui è un genere su cui per esempio hanno lavorato tantissimo le scrittrici italo-americane, scrittrici e scrittori africani-americani o cicani per esempio negli Stati Uniti, quindi tutta una serie di categorie di persone che appartengono appunto o alle classi subalterne o alle minoranze etniche negli Stati Uniti, che sono state svalutate, che sono state considerate non capaci di fare della vera letteratura e che invece hanno stravolto completamente i canoni della letteratura e i generi letterari, creando un genere nuovo in cui partono dalla propria esperienza diretta e lì non c'è appunto l'oggettività, ma c'è il proprio punto di vista reale, il modo in cui le persone, i soggetti percepiscono le esperienze che vivono. No, ma infatti ci sono autobiografie, autobiografie, ma adesso mentre parlavi me ne sono venute in mente due, cioè autobiografia di uno Yogi e poi l'autobiografia di Angela Davis, che è veramente uno di quei libri che quando lo leggi ti dà una forza. Mamma mia, e poi comunque ti dura sempre troppo poco per quante volte te lo vuoi rileggere, perché va bene, ma e allora diciamo che a un certo punto una canzone materializzò anche questa speranza di cambiamento, che poi si riflette nelle logiche delle definizioni casomai di che cosa hai scritto, quanto proprio nella giustizia, quanto nel razzismo, quanto è tutto quello che è stato il movimento che poi dagli anni 60 in qualche modo ha cercato di cambiare le cose. Brava. There's an old friend that I once heard say, something that touched my heart, and it began this way. Just like the river, I've been running ever since. He said it's been a long time coming, but I know my change is gonna come. Oh yeah. La passionale voce di Aretha Franklin. Sono nata sul fiume in una piccola tenda. Oh, proprio quel fiume che da allora sto percorrendo, ed è passato tanto di quel tempo, ma so che ci sarà un cambiamento, sì che ci sarà. Ovviamente in Giamaica potevano non rifarla. Ken Parker. Lungo un fiume, sì, ne? Come il nostro biondo Tevere. La vita è stata durissima, ma ho paura di morire perché non so che c'è lassù oltre il cielo. Ed è passato tanto, tanto di quel tempo, ma so che ci sarà un cambiamento, sì che ci sarà. Ma certo che ci sarà. E anche Otis Redding ha voluto dire la sua, sì. By the river. Perché comunque il fiume è acqua e anche il mare, sì. Just like this river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know change has gotta come. il fiume erode a chiano ed è passato tanto, tanto di quel tempo, ma so che ci sarà un cambiamento, sì che ci sarà. Sam Cooke. In una piccola tenda, sin. Every sense it's been a long time coming. Long time coming. A change gonna come. Oh yes it will. It's been too. Die. I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother. Say, brother, help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I couldn't last for long. Allora parlavamo di Maya Angelou e insomma bisogna ricordare che ha avuto una vita molto tormentata perché è cresciuta comunque da bambina a St. Louis nel Missouri e ha sperimentato tutto il razzismo che una giovane donna nera poteva appunto subire in un paese del sud degli Stati Uniti negli anni agli inizi del Novecento e questa esperienza lei stessa la racconta appunto nel suo primo memoir, il canto tradotto in italiano col titolo Il canto del silenzio nel 1969 che è appunto il primo best seller scritto da una donna nera negli Stati Uniti, una racconta una vita di violenza perché appunto Maya Angelou a 7 anni fu stuprata dal fidanzato della madre che poi fu ucciso per vendetta dai suoi zii e quindi Maya subì un trauma così violento da toglierle la parola per ben 5 anni. In questi anni si innamorò della letteratura leggendo insomma le opere di tantissimi poeti e fu quando incontrò James Baldwin che lui le consigliò appunto di trasformare la sua rabbia e il suo dolore in scrittura e da lì nacque l'idea di scrivere il suo primo libro. Sì, che poi sono queste vite veramente vissute, forse era pure più diffuso allora perché adesso siamo tutti più lobotomizzati, ma non adesso, da qualche centinaio di anni molto più spenti appresso a tutte le possibilità che il progresso ci dà, mentre casomai in situazioni più estreme ovviamente vivi e crei anche, perché appunto è incredibile la quantità di opere che ha fatto questa donna, ma comunque fino a 80 e passa anni girava, ha preso non so quale medaglia, tipo veramente l'anno scorso. Sì, ma poi cioè, è evidente che secondo me no, la scrittura è proprio la scrittura di sé, la scrittura anche autobiografica è uno strumento di resistenza per le persone che hanno subito un trauma o una violenza, come certo, nel suo caso, certo. E diciamo che lei si è salvata proprio andando via giovanissima con una borsa di studio dal sud degli Stati Uniti e trasferendosi in California, a San Francisco, dove ha iniziato a studiare e addirittura a soli 16 anni ha avuto un figlio nel 44, e quindi da quel momento, per mantenersi e per poter continuare a studiare e mantenere questo bambino, ha fatto tutti i mestieri possibili, dalla cameriera, la cuoca, la prostituta, la spogliarellista e addirittura, come dicevi tu prima, la tranviera, quindi la prima persona nera a condurre un mezzo pubblico nella città, no, di San Francisco. Ma non solo, perché poi è andata in Africa, capito? Casomai è andata prima nel Maghreb e quindi faceva la giornalista in Egitto. Infatti, capito? Come giornalista, cioè, in Egitto e in Ghana. Poi è andata in Ghana per la decolonizzazione, capito? Quando ci fu tutto il movimento della decolonizzazione, cioè, comunque, e lì ha conosciuto Malcolm X, sono diventati amici. Assolutamente. Infatti, poi dopo la morte di Malcolm X, Martin Luther, perché comunque poi a quel punto, sì, poi nelle biografie parlano sempre della sua amicizia con Martin Luther King, insomma un po' meno è uscita da quella con Malcolm X, certo, però ovviamente, insomma, a noi ci interessa entrambe. Poi sì, negli ultimi anni è stata pure sostenitrice di Clinton, vabbè, insomma, va, sì, all'HB, vabbè, insomma, ma pure l'ultima medaglia l'ha presa tipo da Obama, però che c'entra comunque, cioè, io ti voglio dire, un percorso lungo nella quale poi ovviamente le visioni, perché sai, ogni persona acquista una propria visione del mondo anche con le esperienze che fa, ovviamente se viaggi e vivi in posti così diversi dove i modi di pensare sono così diversi, poi puoi arrivare pure a conclusioni casomai differenti o meno estreme o più estreme, perché no, ma certo, no, figura, insomma, noi raccontiamo un po' tutti gli aspetti che sono ci incuriosiscono di questo personaggio, che comunque trasmette appunto una forza, una passione incredibile. E non lo so, insomma, prima di chiudere volevo ricordare appunto, oltre a questa storia di brutalità e discriminazioni razziali, anche il fatto che è stata appunto un'attrice, una cantante, una regista, ha recitato addirittura, ho scoperto anche in qualche puntata dello sceneggiato Radici, che fu uno di quelli storici, no, sulla storia autrice, compositrice, cioè. Sì, e poi guarda, incredibile, allora ha recitato, dicevo, in Porgy and Bess, l'opera, sì, di Gershwin, no? E quando praticamente ha fatto la tournée per portare in giro in Europa questa produzione, si racconta, insomma, che negli anni 50 fece questa tournée in giro per l'Europa e decise di provare a imparare la lingua di ogni paese che avrebbe visitato, e non lo so, insomma, in un anno di tournée cosa potrà avere imparato. Fuori da capo totalmente, sì. È un'altra curiosità, insomma, il suo nome, il cognome Maya Angelou, in realtà Maya è un nome d'arte, non è il suo nome vero, all'anagrafe era nata come Marguerite Ann Johnson, e Angelou è la storpiatura del cognome del suo primo marito, che era un marinaio greco e si chiamava Tosh Angelopoulos. Sì, su quella su quel mercantile battente bandiera libanese. Sì, come no. Okay. But he winds up knocking me. Va bene, continuiamo questo, diciamo, questo viaggio così in qualche modo nella musica e diciamo in questo mix che ci siamo riproposti di fare. Adesso il passaggio, ci abbiamo qua Giacomazzo di Percezione Sesto Senso. Giacomo, vieni qua un attimino. Ecco, e sei stato sempre appizzato. Come, sì, ti va? Tutto a posto? Alla grande, alla dai. Sì, senti, sì, ma state a fare una storia, il crowdfunding. Sì, oggi è 19, siamo arrivati. Crowdfunding, siamo arrivati a in dirittura d'arrivo, siamo lì, ecco, insomma, mancano 3 giorni e sarà una bella situazione. Ma ci puoi anticipare qualche cosa su sto video? Ci puoi dire qualche cosa? Diciamo che è segretissimo. No, segreti non ce ne sono, okay, però okay. Sarà una bella storia, ci divertiremo, suoneremo parecchio quest'estate, faremo un sacco di date, insomma, abbiamo già bei concerti, uno su tutti il 12 luglio al One Love Festival di Vignano Sabbiadore, insomma, apriremo la serata che verrà chiusa da Anthony B, quindi insomma, per Percezione Sesto Senso, il gruppetto di provincia, l'artista buono come di provincia, ma voi non eravate di Teramo? Eccola. Eccala, era andato tutto bene. Vabbè, io vorrei svelare un retroscena a questo punto. Io esatto, la dico sempre ogni volta che parlo di Giacomo Mazzo, perché i Percezione e Sesto Senso sono stati insieme a Radici nel Cemento, diciamo, i due gruppi che hanno reso possibile la grande festa dei 37 anni della radio quest'anno al Forte Prenestino. E quindi un grazie, insomma. Sì, quindi un grazie. Grazie a voi. No, ma la cosa è stata. Vabbè, mo basta che grazie. Sono tre settimane che sentiamo grazie. Parliamo di sostanza qua. Dai, non mi fate sempre essere quella. Vabbè, basta. No, voglio svelare sto retroscena. Stai sviolinate tra reggettari e basta. Scherzo. Noi siamo così romantici. E io invece sono provocatrice, quindi c'è state. No, praticamente ci eravamo sbagliati sul flyerino che era in uscito e sul poster avevamo scritto, a parte che l'avevamo scritto staccato, perché Percezione Sesto Senso si scrive tutto attaccato. Esatto, specifichiamo. Voi ci avete infatti... Tipo supercalifragilistiche spiralidose. Bravissima, bravissima. Scriviamo PSS per essere più chiari, perché ecco, insomma... acronimo si ricorda meglio, no? Ecco, io volevo dire, siccome la radio è un bel po' che continua giustamente, anzi graditamente, a ringraziarci, ed è una cosa che voi insomma vi siete spesi parecchio per ringraziare noi Radici, io volevo dire che il grande grazie va da noi a voi, ma non è una sviolinata, ragazzi, sapete meglio di me che per un gruppo come Percezione Sesto Senso è stata un'opportunità veramente importantissima dataci dalla radio, ma soprattutto io volevo dire, volevo ringraziare Giulio dei Radici, soprattutto i Radici nel Cemento in toto, ma Giulio che è veramente un fratello e che quindi ci ha, come dire, ci ha spinto, ci spinge da sempre, e poi i risultati si vedono. No, quindi... ma infatti diciamo che anche poi il progetto Percezione Sesto Senso, che è uno dei vari progetti che stanno, diciamo, del nuovo, della nuova musica, del nuovo reggae o più o meno reggae in italiano, perché tanto vorrei salutare pure il grande Bruno Formadonda e Flasco dei Neurologici, che comunque hanno reso possibile questo, il CD di Giuliano, gli invisibili che rendono possibile, no? Che rendono possibile, sì, con tanti sacrifici, perché poi lo sappiamo bene che insomma non è un mondo in cui ci fai soldi a fai CD, poi figurati sto tempo. Però è bello che c'è sta chi ci crede, insomma, come anche Adriano Bono che con Reggae Circus sta facendo, no, ci sono, capito, tutta una serie di persone che ci credono, realizzando appunto dei grandi progetti molto belli, molto creativi. Senti, vabbè, a questo punto che sì, te devo dire, canta al volo un pezzo tuo, no, così a cappella, no, dai. No. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, male. Ok, questo è, diciamo, ecco. No, no, no, no, non ci basta, cioè, che era un intro questo. Ma questo è il, capito? Okay. Il jingle, no? No, no. Vabbè, no, basta, dai, vi dai, basta, basta, lo sto mettendo in difficoltà. No, è lunga ancora, è lunga. Vabbè, facciamolo scaldare un attimo, no? No, ma mi mette in difficoltà così. Cioè, proprio, guarda, veramente non ho parole, diventa tutto rosso. O perché non ha portato la base cumbia, se no così siamo per le feste. Va bene, comunque adesso Giacomazzo praticamente si è portato un percorso musicale in tema con questo con questa puntata, diciamo, mista. Allora, spiegaci tu diciamo qual è il viaggio che ci stai portando a fare. Beh, guarda, quello che, insomma, parlando un po' con voi della trasmissione che volevate insomma portare oggi in radio, ho pensato che potevamo ricollegare o comunque confermare il collegamento tra la cultura della musica reggae, quindi per ricollegarci appunto prima alla poesia, che si parlava della parola rise, insomma, diciamo collegare la cultura reggae insomma all'emancipazione del popolo nero e alla ricerca di libertà e di giustizia da parte del mondo del reggae nei confronti appunto del sistema. Quindi ecco, parlare di reggae in relazione alle lotte del popolo nero mi sembra una cosa appropriata, e giusto? Ci siamo. Assolutamente, quindi adesso ho nominato la parola giustizia che mi ha riportato ovviamente in mente Peter McIntosh, quindi ti apro questo, yes, diciamo, viaggio con questa fight apartheid scene. Yeah. Gold. Giacomo, a me piace che hai aperto questo pezzo, perché a parte che ogni volta che sento la voce di Bob Marley così me scarfecio. Esatto. E poi perché questa è anche una canzone simbolica anche del percorso di autodeterminazione proprio di Bob Marley, perché questa è la canzone che scrissero Small Axe contro, non starò qua a fare i nomi, ma insomma contro un'etichetta discografica giamaicana che in qualche modo rappresentava quello che rappresentano oggi le major, perché comunque dovete immaginare che in Giamaica negli anni 70, fine 60, era molto mafiosa anche la gestione della musica, perché era già un grosso business, sì, quindi insomma sì, era a mano alcuni personaggi molto loschi, e Bob Marley insieme proprio a Bunny Wailer e a Peter Tosh misero su, iniziarono a mettere su, diciamo, le basi di quella che divenne poi la Tuff Gong, e scrissero questa canzone: se tu sei un grande albero, io sono una piccola ascia pronto ad abbatterti. Sì? Dai, yeah. Robert Nesta Marley. Faremo un bel viaggio lungo tutto il continente americano, partiremo dal nord, quindi dagli Stati Uniti, non proprio nord-nord, insomma, però dagli States, partiremo da lì e poi scenderemo lungo tutto il continente, lungo tutte le Ande. Senti, ma arriveremo al futuro? Arriveremo alla cumbia? La cumbia guarda e non favella, attende... Attenti. Attenzione. Arriveremo. Va bene. Ok, quindi, ok. Cosa allora ci proponi? Quindi sì, adesso insomma ci arriveremo, voi non vuoi fare. Esatto, diciamo il pezzo che è già partito nel frattempo. Pure perché questi... quei reggae cumbia che ci sono veramente fanno un pacci, eh. Allora, questi sono i Soja, e sono un gruppo appunto statunitense, due paroline, insomma, sono formati nel 97, loro sono del North Virginia, quindi ecco proprio il nord degli Stati Uniti, e questo è I Don't Wanna Wait. I Soja sono uno, diciamo, dei gruppi più rappresentativi della scena reggae statunitense. E sono bianchi, tra l'altro. Sì, loro. esatto, sono tutti bianchi, e questa è una delle belle contraddizioni che potrebbe emergere. Sì, ma non è una emergere. Contraddizione, perché no, alla fine è il patrimonio dell'umanità, quindi poi alla fine sei arrivato esattamente al punto successivo. Complimenti. Senti, come si chiama la ciunna, hai detto? Sì, questa è I Don't Wanna Wait. Statunitense, i Soja appunto, e continuiamo questo viaggio, scendiamo un pochettino più a sud, arriviamo sempre a sud, sempre a sud. Rotolando verso sud, noi scendiamo in California, precisamente in California del Nord, dove incontriamo questo gruppo che a mio avviso è uno dei più grandi gruppi della scena reggae mondiale, che sono i Groundation. E Groundation è un gruppo assai particolare, perché insomma sono 5-6 componenti che si sono conosciuti all'interno di un'accademia jazz in California, che hanno deciso di iniziare a suonare musica reggae con appunto tantissime influenze provenienti dal jazz, e quindi la loro musica è una musica molto arrangiata, molto particolare, tanti cambi di tempo, ritmi, riff diversi, è una musica reggae per, diciamo, palati ben allenati, ecco, di certo non è il gruppo reggae immediato che arriva col pull up, con la tune, no, è un gruppo riflessivo, una musica, come dicevamo prima col caro Pietro, musica reggae dolce, delicata, morbida, ecco, questa è, diciamo, un po' lo stile americano, no? Quindi siamo ai Groundation, Picture on the Wall, questa è una delle più grandi tune dei Groundation. Veramente di gusto, perché sì, è una musica articolata con gli arrangiamenti, insomma, ci sta. Poi anche la voce, devo dire, è ispiratissimo. Sì, una voce molto molto particolare. Pensa a Israel Vibration. Esatto, sì, ci sono molti. Ispirato, proprio una voce. Che poi guardarli dal vivo è davvero un'esperienza emozionante, perché percepisci il feeling che hanno con questa musica, il collegamento che c'è, l'interazione che c'è con il pubblico, che è davvero forte. C'è una trasmissione continua e penso che questa debba essere un po' la caratteristica principale di tutti quelli che si prendono la responsabilità di fare una musica come questa, no? Che quindi deve per forza di cose trasmettere emozioni forti, altrimenti rischia di risultare, diciamo, un po' ostica l'ascolto. Quindi ecco, i Grandation sono davvero un grande gruppo. Poi l'organo c'è, sta sempre, sì. Foundation, che sono usciti nel 2012 con il loro ultimo album, no? Che si chiama Building an Ark, ed è un disco davvero eccezionale, un viaggio che vi consiglio di intraprendere. Poi i testi, mo adesso già Building an Ark, insomma, è sicuramente evocativo, no? Tra l'altro una copertina meravigliosa, nei vari sensi che l'arca può avere. Esatto. Ma i testi comunque, almeno questo che ho suonato, era un testo molto conscious, con molti riferimenti arcaici anche, insomma, cioè, evidentemente sì, se la ci stanno proprio dentro, perché sì, sì, il cantante è appunto un personaggio particolare, molto, che si vede, ha molto a cuore queste tematiche, e quando canta trasmette tantissimo. Forse sarà anche questa sua voce un po' strana, tra virgolette, no? Questa sua voce particolare, ma è davvero evocativo, insomma. Va bene, allora adesso invece che cosa ci fai ascoltare? Adesso continuiamo a scendere un po' più giù, andiamo, diciamo, nei Caraibi, ecco, atterriamo finalmente nei Caraibi con questo lungo viaggio che noi, insomma, ecco, devo fare un po' devo chiosare, appunto, come si diceva prima, per i Percezione Sesto Senso il discorso del viaggio è molto importante, è un discorso portante che comunque ci accompagna sempre, e quindi, essendo io venuto qui a rappresentare, sì, appunto, questa diciamo, Percezione Sesto Senso, e quindi anche un modo di vedere e sentire la musica, questo viaggio continua con arrivando ai Caraibi, precisamente a Porto Rico, dove c'è un gruppo spettacolare che è chiamato Cultura Profetica. In Italia non sono molto, molto famosi, credo che addirittura non siano mai venuti qui in Italia, però ecco, i Cultura Profetica sono un gruppo, come dicevamo, molto piacione, un gruppo che con dei suoni molto caldi, molto caraibici. Vabbè, a Porto Rico ci sanno fare, Puerto Rico, se ci sanno fare, dipetti, insomma, in gamba, tutti ragazzi a modo. Sì, sì, sì, sì, sì. Posso dire una cosa? A me la cosa che dicevo rispetto a questo gruppo, e secondo me è da notare, adesso parlavate di voci, sì, secondo me Puerto Rico, le isole dei Caraibi producono delle particolarità. L'isola è un po' come avere il mare che ti fa da recinto, quindi comunque la produzione è molto particolare, no? Ci si autoproduce, si rimane molto in quel recinto, no? Diciamo, in quel territorio. Questo ha fatto sì che Cuba avesse le particolarità rispetto alla salsa, che poi è un genere anche del continente, però sia invece una salsa specifica, e lo stesso è successo per Puerto Rico, che ha inventato questa bellissima, che ha nella tradizione la baciata, che io adesso capisco che a noi ci è arrivata, insomma, come la salsa, del resto, insieme al reggaeton, sono insomma in una maniera più commerciale e devastante e triste, dopodiché invece sono delle cose bellissime. La baciata comunque è un genere molto antico, che ha un significato molto romantico, molto particolare, adesso al di là proprio della piacioneria, capito, invece, per cui volevo, insomma, poi capisco. Cioè, visto che stai a nominare questi ritmi, anche il son, che glielo vuoi dire, appunto, esatto, la guaraccia, comunque, Rigliano, probabilmente hanno dei balli appresso bellissimi di coppia, quindi molto forti ma molto delicati, cioè, sì, sono tradizioni, sì, sì, forti, sì, esatto, che uniscono anche proprio le persone. No, per quello ci tengo a dire che è tutto molto diverso da quello che ci arriva qua, insomma, bisogna andare a levare questa patina orrenda commerciale e mediatica che è stata messa. Comunque, dicevo che secondo me Cultura Profetica, la voce di Cultura Profetica è molto una voce da baciata, è molto una voce che nonostante il reggae non sia il genere isolano, invece poi richiama molto a tutta la tradizione delle musiche dell'isola. Sì, anche perché a Porto Rico i Cultura Profetica sono un fenomeno nazionale, cioè i Cultura Profetica riempiono stadi interi a Porto Rico. Quanti ce ne saranno? Pochi, però ci saranno stadi a Porto Rico. No, ma guarda, ci sono dei video dal vivo che possiamo trovare insomma sulla rete ovunque, dove davvero folle sterminate, perché ecco, loro sono molto famosi anche per aver tributato un intero tour a Bob Marley, quindi reinterpretando tutte le canzoni di Marley o gran parte delle canzoni di Marley. E nel 2007 è uscito questo album dal vivo e loro sono diventati un fenomeno davvero pazzesco, e la loro interpretazione di Marley è molto interessante, perché oltre ad essere molto fedele è caratterizzata dal fatto che la voce è del batterista, quindi c'è questo batterista che poi non è facile per i bassisti e per i batteristi, non è assolutamente facile cantare, molto difficile riuscire a unire, diciamo, a pensare una melodia e realizzarla quando si è così ancorati al ritmo, quindi basso e batteria, diciamo, sono gli strumenti che di solito sono interdetti ai cantanti, tranne rare eccezioni, ma sono persone che veramente hanno un talento in questo senso e quindi riescono. Sì, e in Cultura Profetica riescono particolarmente bene in questo. Ma il cantante è sempre il batterista No, brano solito, che ci stai facendo ascoltare? Di solito in tutti gli album appunto dei Cultura Profetica, che sono 5, il cantante è il bassista. Poi vedi, le particolarità sono continue particolarità. Si sono trovati evidentemente, esatto. Insieme. Il cantante è il bassista, che è la voce che ascolteremo. Senti, ma in qualche modo è un collettivo questo di Cultura Profetica, no? Sì, perché una delle particolarità di questo gruppo, esatto, è che sono tantissimi. Come dire, i gruppi reggae non è raro che siano formati da molti componenti, però i Cultura Profetica attualmente sono 13 o 14, ecco, insomma stiamo a parlare, di persone, eh. E ci sono altrettanti membri fondatori e, diciamo, girovaghi, turnisti all'interno della band, quindi sì, esatto, più che un gruppo è un collettivo appunto veramente che fa veramente buona musica. Anche perché, come diceva prima appunto Marta, loro sono stati molto bravi nel cogliere, ecco, questa è un'altra particolarità che ci piace a noi altri abruzzesi, sono stati molto bravi nel cogliere le loro radici musicali e culturali, anche con una semplice particolare voce, appunto, che contraddistingue, diciamo, quella zona, quel timbro musicale. Quindi sì, loro sono molto mescolati alle loro radici musicali, quindi appunto, come si diceva, la baciata, comunque ritmi caraibici, e fanno questo reggae roots bello stiloso. Va bene, quindi che brano ci andiamo a ascoltare? Il brano è Un Deseo. Un Deseo, sì, in Cultura Profetica. Decirlo, pero como cuesta dar con ese instante para decirte que tengo. Trilino, ¿ci hai convinto? Ay, ay, ay, ay. Decirlo, pero cómo cuesta dar con ese instante para decirte que tengo una intriga que no descansa, tengo mucha curiosidad y aunque el agua está bien clara, no veo cómo saltar. Sonriendo, entonces entiendo perdido si no se intenta. Piensa cuántas veces no te atreviste y dejaste que se te fuera la noche entera, ya sin saciar la curiosidad. Y te vas de vuelta a casa, perdiendo en vez de ganar. Pero ya sé que todo miedo esconde un deseo, y más, más y más lo creo. Cantano spagnolo, ovviamente. Sì. Beh, questa è un'altra particolarità, perché il reggae in lingua spagnola è un mondo enorme. Anche, ma diciamo che poi il reggae è una di quelle musiche che in qualche modo, attecchendo nei posti più incredibili, diciamo tende a rialimentarsi come un seme piantato su una terra nuova. Poi la pianta che esce è sempre quella, però insomma noi l'abbiamo visto in Italia, come anche le forme proprio legate alla propria lingua, al dialetto, hanno caratterizzato il reggae degli ultimi 20 anni, no, da noi qua, perché comunque, ma un po' in tutto il mondo è così. Addirittura c'è sta The Weld, che saluto, la The Weld, che ha fatto una tesi tra appunto il Padua, Shashimani, tipo in Etiopia, cioè comunque anche il veicolo linguistico, no? Bob Marley si sente in tutto il mondo, pure perché c'è un inglese molto molto semplice. Poi casomai dopo 20 anni, 30 anni sono iniziato a sentire canzoni anche più, diciamo, ballabili, canzoni di Bobbo, o comunque canzoni cantate in patua, e quindi la gente, non so, in Africa, come che te do, in Vietnam o in Thailandia, si è imparato al patua. Certo. Perché poi attraverso la musica in qualche modo impari. Senti, e quindi adesso, visto che siamo a Puerto Rico, siamo proprio un passo da quella piccola isoletta delle West Indies. Esatto, sì. Cioè stavo proprio là. Sì. Facciamo un saltino, come dire, facciamo un salto anche breve, corto, sottile, sì, e atterriamo in Giamaica. E che cosa ci proponi? Questa è Ken Booth, di un brano di Ken Booth, Is It Because I'm Black? Qualcuno mi dice cosa posso fare. Something is holding me back. Is it because I'm black? In this world of no pity, Un brano dove si sente davvero tutta la rabbia, tutta la sofferenza, tutta, diciamo, la voglia di emergere, di riemergere, perché appunto la domanda è: tutto questo è perché io sono nero? Sì, che poi si sente che Ken Booth vive quello che sta cantando, è una interpretazione vissuta veramente. Because I'm Black è comunque un brano, come diciamo prima, anche un po' soul. Parecchio soul, è vero, è schifo. Vedi quanti collegamenti tra Marta e la Giamaica, ma chi l'avrebbe mai detto, eh? Quindi mi tocca annacce prima o poi. Pensate sì, eh. Te ci vedo che torni con i dread. Guarda, mi ha fatto arrabbiare pure il cane, mi ha fatto arrabbiare. La cana, chiaramente. Diciamo che dagli States arrivavano questi suoni, in Giamaica li prendevano un po' così. Ecco, quindi questo è il loro modo di suonare queste cose. E poi la sezione fiati è infogliatissima, infogliatissima proprio. Quindi adesso che siamo in Giamaica, che fa? Dobbiamo già andarcene? No. Ecco, diciamo che per la Giamaica facciamo un'eccezione, così. Ecco, vedi? Però è e poi si dice che poi si dice no, facciamo un'eccezione, ma un'eccezione mettendo il secondo pezzo, perché una è l'eccezione che conferma la regola e due non c'è due senza tre, quindi adesso solo musica alla Giamaica. Fammi guardare. Piccole provocazioni, dai, facci. No, questa è una provocazione buona. Questo è un altro brano che viene un po' dalla Giamaica e un po' dal proseguimento del nostro viaggio, perché questo è un brano di Luciano, su cui, insomma, credo che non The ci messenger. Sia esatto, credo che non ci sia niente da dire su un personaggio che ha fatto della musica reggae uno dei più grandi veicoli di pace, amore e di serenità. Davvero, forse Luciano è uno dei pochissimi che spinge concretamente queste cose, rendendosi anche molto utile. Questo è un altro discorso da aprire sull'utilità, insomma, dell'artista, e Luciano è uno di quelli che davvero si dà da fare. E appunto lui è un artista giamaicano conosciutissimo, che insieme a Dread Marai, che è un artista argentino, quindi continuiamo questo viaggio, arriviamo fino all'America del Sud, arriviamo nella Pampas argentina, con appunto Dread Marai, questo brano che è un brano molto molto significativo, che insomma fa da veicolo anche ad un video molto molto bello, che appunto celebra l'unione di queste due culture, di queste due lingue, ecco. E appunto il brano si intitola Only Love, non a caso, ed è appunto Luciano and Dread Marai. Dai, è The Messenger. Sempre onda rossa, sin. Questa è Attica del Sol. The passengers, welcome to Jamaica. Luciano! Now, Dead My Eye. Oh, Lord, Lord. Hey, only love. Only love, oh, tan solo amor, will help us when we love ourselves and the unity of mankind will save have seen this time. Only love, only love, o tan solo amor, will help us when we love ourselves and the unity of mankind. Save us in this time. Say they try to separate us, 'cause they want us to fight amongst ourselves. They try to control our lives and treat us just like slaves. Only love, oh, tan solo amor, will help us when we love ourselves and the unity of mankind will save us in this time. Only love, yeah. Only love, only love. Hoy muy claro y muy consciente que manejan el presente, pero el hombre que vive con fe, libre el alma y libre la mente. Only love, o tan solo amor, will help us when we love ourselves and the unity of mankind will save us in this time. Only love, o tan solo amor, will help us with we love ourselves and the unity. Ci sta un disco bellissimo di Luciano live, non mi ricordo se in Cile, comunque in un paese del Sud America, sarà un disco uscito mi pare nel 96-97 o comunque il live di uno di quei periodi, ve lo consiglio, adesso non mi ricordo, forse live in Santiago, comunque è un CD proprio, sicuramente si troverà anche in rete ed è veramente emozionante, perché comunque Luciano è uno di quei personaggi che tu conosci molto bene, dai, diciamo. Io lo conosco bene, sì, comunque quando lo vedi dal vivo, cioè è veramente come sulla scuola di Peter Tosh, di Giacomo Miller, di questi grandi che comunque trasmettevano, adesso si è abbastanza inciccionito, a parte che è sempre insomma molto mistico, molto magico, anche proprio nell'utilizzo della voce, ma io me lo ricordo forse una quindicina d'anni fa che faceva le capriole sul palco, cioè i salti mortali, si arrampicava sulle casse, saltava, capito, da 5-6 metri, cioè, faceva delle cose proprio fuori di capo, cantando, ma poi cantando, capito? Cioè cantando, lui faceva il salto mortale, capito? E cantava perfettamente. Perfettamente, immagino, ovviamente. Insomma. Questi hanno delle voci che sono degli strumenti, queste sono veramente dei patrimoni. Ecco, la Giamaica dovrebbe farsi forte di questi patrimoni che ha e lasciare che siano questi i temi che escano da un'isola controversa come la Giamaica, perché appunto lì c'è. Vabbè, ci sono davvero tanti tanti guai. Che facciamo? Rimaniamo un attimo qui nell'isoletta? Sì, perché poi stavo pensando che poi alla fine siamo detto facciamo un'eccezione, mettiamo due pezzi alla Giamaica, ma questo è mezzo pezzo alla Giamaica. Infatti. Scusa, allora noi dobbiamo aggiungerne uno e mezzo. Ecco, diciamo che ne mettiamo uno che vale per quasi per due. Sì, vabbè, la schiena del sol ci sta. Dimola tutta, Marta sta facendo la regia di questa selezione, qua siamo tutti in grandi onori a sto Giacomazzo. Oggi è davvero una grande giornata. Dai, no, ma a voi vi piace sta giornata? Facilo vedere, Trilli 49 17 50, la cosa più antica è c'è la radio, questo bel numero di telefono di 6 cifre. Comunque ci hanno messo il prefisso, lo sapete, facci vedere che ci state, perché serve sempre. Sì, perché poi abbiamo cambiato le frequenze, almeno il numero di telefono. Arrivato lo streaming, tutte cose moderne, ma che siete matti? Molto giovani siamo. Molto sì. Giovani, 37 anni, una pischella tu. Una pischellissima. Rimaniamo... Sì, okay. Ah, wow. Esatto. Manco il tuz. Oh yeah. come a di sei tu. Pressure drop. Pressure drop, the drop on you. A pressure drop, oh pressure. Oh yeah, pressure drop, the drop on you. Adrillino, facile facile ci avete convinto, Sien. Manco il Tuz Ibert. Che poi a un certo punto il povero Tuz, diciamo, stava sulla cresta dell'onda, stava sulla cresta dell'onda, era il 75-76, se lo sono bevuto con insomma qualche piccolo zaino così di erba. Sì. Ed ha rappresentato uno dei casi più controversi riguardo al consumo e allo spaccio di marijuana, perché appunto lui ha cercato di difendersi nel 66, dicevamo, sì, nel 66, e lui dicendo che all'epoca già, dice, io sono rasta, voi non mi potete arrestare, sì, perché... Sì. Uso personale, che c'aveva una cinquantina, esatto, di chili, insomma, una cosa del genere. Fatto sta che tutti lo davano per spacciato, dicevano beh Tuz è finito, perché ovviamente è finito in carcere, cioè il processo è stato molto, molto controverso appunto, e lui è finito in carcere, quindi tutti hanno detto beh ormai è finita la grande carriera, perché comunque Tuz era già molto famoso in Giamaica e in generale in Centro America. But lui c'aveva un numeretto scritto sulla maglia che era 5446. E appena uscito fece sta canzoncina, 5446 era il mio numero, in barba diciamo alle autorità giamaicane, e ovviamente questo è Tuz oggi. Qua il telefono è impazzito, secondo me lo dobbiamo rimettere un'altra volta, perché... Sempre Tuz Ibert, sì, in Pressure Drop. Che pazzo, no? Stava anche i Clash, insomma, i Damned, cos'è? E appunto i Metal. Sì, perché poi Bob Marley, tra l'altro, mi sa che il tuo microfono non si sente bene, c'è adesso un problema. C'è, ci siamo, ci sì. No, stavi dicendo appunto che Bob Marley citò Tuz Ibert, perché era anche un momento, Bob Marley si trovò in Inghilterra a metà degli anni 70, nel pieno del panico, del fomento, comunque veniva, sì, aveva girato da Stati Uniti, insomma in Inghilterra c'era la rivolta e il reggae e i punk erano comunque insieme storicamente. Pressure, pressure drops in. Ma noi siamo come le anguille, gli sfuggimo dalle mani, sì. Ovviamente potete anche utilizzare il 49 17 50 per comunicarci il vostro punto d'ascolto, come hanno fatto gli amichetti dei Colli Portuensi, sì, Bless Up. Che poi Pressure in qualche modo, come lo stava cantando in questo finale Tuzzo, mi ha fatto pensare a Rice, no? Perché poi esatto, alla fine esatto, gira sì, che sì, te sì. rigira. Senti, adesso che cosa ci fai ascoltare? Sì, invece? Adesso finiamo il viaggio, ecco, siamo arrivati alla fine, finalmente ce l'abbiamo fatta ad arrivare in fondo, siamo arrivati quasi, quasi in fondo al continente americano, arriviamo in Brasile e questi sono i Ponto de Equilibrio e sono un gruppo, un gruppo appunto brasiliano ispirato palesemente a Misty Roots e quindi roba seria. Il brano è Novo Dia e questi appunto sono i Ponto d'Equilibrio. Vabbè, già hai scavallato nella terra del con futuro, i Congos, già con i Congos. Ok, vai. Vem mais um dia, eu não posso adiar. Pois no dia a dia este é o meu caminho, eu não quero desviar. De vez em quando esqueço. Yeah, yeah, yeah. De vez em quando esqueço. Uau, uau, uau. A importância de lutar, vivendo sempre o amor, agradecendo a este dia que brilha, presente igual não há, não há, não há, não há, não há, não há terror para quem sabe amar, não há, não há. Conectar a força de Deus é pra quem sabe amar e se conectar com a força de Deus é pra quem sabe amar. Oh, oh, yeah. Para ser muito mais do que só aparentar e aparecer. E aí? E aí? Vamos nos aceitar, viver no bem-estar. Vamos nos redimir, reconciliar. Vamos nos aceitar, viver no bem-estar. Vamos nos redimir, nos equilibrar. Dá pra ser muito mais. Vamos ser, dá pra ser muito mais. Vamos ser, vamos ser. Dear Allora che dite, posso? Posso? Dai, no, non so, dico, dai, posso? Dai, allora intanto volevo un attimo fare delle comunicazioni di servizio per chi ci ascolta, intanto grazie, chiamate qua al telefono, è veramente diventato di fuoco, capisco che il reggae prende, ma insomma adesso poi la mettiamo a giocare, non che io il reggae poi non lo apprezzi, no? Diciamo che semplicemente anche sono cresciuta in una generazione in cui veramente overdosi totali di reggae, appartengo così bene a quella classe in cui il reggae l'ho visto arrivare a Roma, è stato stupendo questo, insomma dobbiamo ricordare, si è italianizzato, sono cominciati a spuntare come funghetti un sacco di gruppi, e quindi voglio dire, appunto, siamo qui anche per questo, lo vedete, poi la mettiamo in forma di gioco, di sfida, così. Rimane il fatto che, ecco, io sicuramente non sono specializzatissima di gruppi reggae del Latino America, perché lì invece vado proprio a cercare quella musica chiamata cumbia, che è per me il futuro. In questo caso però diciamo che no, credo che questo sia anche accompagnato dal fatto che ci sia, lo dico spesso anche nelle trasmissioni, una grossa esplosione musicale in Latino America adesso, dal Messico in giù, l'Argentina piuttosto che il Cile, piuttosto che il Perù, giovani che si riappropriano della tradizione e si divertono a metterci sopra le elettroniche, a farne basi, oppure a mettere appunto i vissuti latinoamericani nelle, nei ritmi caldi del reggae, quindi insomma questo sicuramente accade, oppure no, appunto sempre... a cubianizzarlo, non so come dire, comunque a giocare con la musica, cosa c'è di più bello per quanto mi riguarda. No, ma anche questa proprio attitudine, diciamo, che viene dal Sud America, anche con la tecnologia, no? Ci sta quel sito che mi ha fatto vedere dove puoi scaricare, esatto, lo di ricordiamo tutto. Perché sì, secondo me è un lavoro pazzesco che fanno questi compagni, perché poi insomma sono anche compagni, che si chiama Rebel Sounds, cioè sfinale.org, e che mette a disposizione musica, devo dire, partita con Latin America, ma si trovano adesso gruppi russi piuttosto che appunto, ma ci sono italiani, poi forse migliaia, centinaia di migliaia di interi album, perché poi la cosa figa è che ci stanno gli album proprio. No, è chiaro che loro appunto essendo fondamentalmente copyleftisti chiaramente intanto gli piace dare spazio innanzitutto a chi la propria musica la suona, la condivide, e infatti penso che siano proprio i gruppi a voler caricare, non lo so esattamente, però possono... non è che insomma è una piratata, non è una piratata, per questo dicevo l'attitudine sudamericana, anche diciamo, la condivisione, l'attitudine sudamericana viene espressa nella sua totalità, in quanto non, c'è, non solo i gruppi da soli possono uploadare con un commento il proprio album, e ma diciamo che ogni tanto succede che dei privati mettano su un album particolarmente ricercato, quindi insomma che poi dopo tipo un mese scompare perché viene pizzicato, certo. Quindi molto latinoamericano anche in questo, del resto insomma ci piace anche per questo, no? Ecco. E allora io partirei dal Messico. Rodrigo Lengua Alerta è stato un ospite di questa radio, è stato ospite delle serate per Onda Rossa, è stato ospite al Cinodromo, insomma qui è di casa, che dire, faccia sentire, no? Guarda se questi mi devono far mettere reggae, oh. Político, sucio político, la dignidad no tiene precio, entiéndelo. Política mala tu política, no seguiremos en este juego, no, ya no. Político, sucio político, todo tiene un límite y el tuyo llegó. Política asquerosa tu política, ya no caeremos en esta trampa, escúchalo. Comerciantes a cargo de todos los países, ladrones de tierra, de agua, de selva, de aire y de mar. Signo de dólares tiene ya toditito el planeta, pero del fuego no han podido adueñarse y nunca lo harán. Reprimes con brutalidad a tu propio pueblo, ha sido por tanto tiempo que esto está por estallar. Secuestras gente inocente en tus prisiones, pero conciencia brillando no podrás parar jamás. No, no, no la podrán parar jamás, ni tú ni nadie, jamás, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. No, no, no, jamás, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Yo pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad, libertad, libertad, defender mi tierra, estoy cumpliendo una sentencia. Por solidarizarme estoy ahora tras las rejas. ¿Qué será? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué será que a mí me espera? Ay, quieren comprarnos la conciencia. Lo siento, la mía no se encuentra en venta. Lo siento, la nuestra no se encuentra en venta, no. No se encuentra en venta, no. Sabemos que esto así no ha funcionado. Dime, ¿para qué seguir así con tu necedad? Y si ya sabemos que esto así no ha funcionado, no hoy. Político, sucio político, la dignidad no tiene precio, entiéndelo. Política, mala tu política, no seguiremos en este juego, entiéndelo. Político, sucio político, todo tiene un límite y el tuyo llegó. Política patética, política, no seguiremos en esta trampa, escúchalo. Escucha bien. Escucha bien. Pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Yo pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Libertad. No, perché alla fine poi si può essere messicani, messicani, no? Allora diciamo, parlavamo di schiavitù, parlavamo di afroamericani, di Stati Uniti, parlavamo di schiavitù, allora parliamo delle coste del Sud America, che sono quelle dove per esempio c'è la gran parte di popolazione nera e la grande rivendicazione che c'è di questa. Però io appunto voglio rimanere un po' nel reggae, perché proprio a prova di questo reggae che viene preso una base, viene accuratamente scritto un testo che si rifà alla libertà, appunto in questo caso voglio dire dal Messico, inutile che vi dico, il Messico, uno dei suoi confini è fatto da un orrendo muro che divide il primo e il terzo mondo, che produce dei mostri orrendi che sono fatti da macchine, da insomma da chi costruisce le nostre macchine, le nostre televisioni, da chi cerca di emigrare. E quindi voglio dire, diciamo che il discorso qui si potrebbe veramente aprire, potremmo stare qua fino a domani mattina. Detto ciò, poi ci sono anche così modi un po' più leggeri di usare il reggae. In questo caso stiamo parlando di Miss Bolivia, inutile dire appunto la sua provenienza. Miss Bolivia appunto viene dalla Bolivia, ormai lei è un po' diciamo così, io la chiamo quattona, poi non è che faccia niente di particolarmente coatto, però sono quelle donne forti che mi piacciono tanto. Che dire, io qua ve la metto insieme ad Ali Guagua, che è l'altro mito di un altro gruppo che mi piace tanto, che voi sapete che si chiamano Cumbia Queer, che però stasera non c'entrano, quindi non ve le faccio sentire. E allora ci sentiamo Miss Bolivia e Ali Guagua con Alta Llama. Yo, desde Argentina, Miss Bolivia. Desde México, Ali Guagua. Prende la vela, prende la vela, paz. Alta llama. Sì, insomma, capisco che non tiro proprio il meglio del reggae, ma insomma ho fatto una premessa apposta, lei è molto più quattona. Vabbè, fatemi giocare, no? Cioè, se stai qua due ore, non lo so io, Mi rimetto subito a posto, E rimetti la pure da capo, va? No, non fa niente. Con esta granada funciona bien, va como trompada y no se apaga. Ni con agua, ni arena, ni con nada. Ni con hierba, ni con vino, ni con bala. Todos dicen que tenemos esta llama, porque te quema y no se apaga. A Marta, che faccio? Qua si illumina tutto d'immenso. Sembra che è Natale con sta lucetta rossa. Dai, yeah. Alta Llama, una fiamma altissima, io me ne ricordo certi ascendini nella cattedrale del forte. Ma non famo i conti degli anni, te prego. prende la vela paz. Alta llama. Con esta granada funciona bien, va como trompada y no se apaga. Ni con agua, ni arena, ni con nada. Ni con hierba, ni con vino, ni con pala. Todos dicen que tenemos alta llama, porque se quema, no se apaga. Alta llama, alta llama. Todos dicen que tenemos alta llama, porque se quema, no se apaga. Alta llama, alta llama. Vamos como guerrera, vamos como la fiera. Tiro la taza y que le escuchen los que quieran. Voy fresca, perforo tu conciencia, sacudiendo las crestas. Ojito la pista, o sin voz estaré. Alta llama, quema, no se apaga. Para que te despiertes y te pongas a bailar. Vive en tu alma la llama original que se propaga. Y no para de sonar, wow. Yeah, sígalo, Todos dicen que tenemos alta llama. Vas a morder la almohada. Fitch, Bolivia y Aliguagua. México y Argentina, otra vez ya son hermanas. Fómate unos porros, sube a la montaña. Que la vida es bella, solo observa el panorama. Estando con alta llama, estando con alto gozo. No necesito fuego, pues enciendo como Ponzo. Vamos con la comparsa, bailando con el corso. Y si cantan las mujeres, pues se escucha más hermoso. Sí, sí, sí, sí. Alta llama, Aliguagua, Fitch, Bolivia. Todos dicen que tenemos alta llama. Vabbè, io mi allontano un po' da reggae, se capita, succede a volte con la cumbia. No, scherzo, qui non c'è neanche la cumbia, ma Malena D'Alessio mi scappava. Direi che qua c'è una base addirittura di tamborona. Vestidos, los que de vez en cuando te duelen y luego dejas el frío. Los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta. Y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia. Como ángeles en resistencia. No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría. No es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Sigridari wo, sigridari darie. Desde Argentina al mundo te lo canto para usted. Secret daddy was, secret daddy daddy, nos interesa. Las palabras son solo palabras y nunca podrán llenar el vacío en la mesa que está famélica, anémica. La indiferencia sin decencia en Sudamérica. Y en las villas no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla. A la batalla como Pancho Villa. Guerra de guerrilla como el Che Guevara. O como el comandante Chávez en democracia. O como Evo Morales, guerrero aymara, presidente en tu propia cara. En tu propia cara, que se descascara. Hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. En cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario, son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico, enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos, suicidios, genocidios antropológicos. Diciendo, cantando, rapeando, rimando, contando. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas. E poi comunque questi ritmi spaccano proprio. C'è tutto. C'è tutto, ma è anche poi la ricchezza di contenuti. Cioè, questo anche il video è molto bello. Se vi capita, andatevelo a vedere di un po' come andiamo a cercarlo questo brano su. Acritud Maria Marta, oppure Malena D'Alessio, l'Acritud, appunto, anche loro sono stati mitici ospiti della radio, hanno fatto un concertone per noi al Cinodromo. E, insomma, che dire, sì, appunto, tutti i contenuti, grande grinta, insomma, loro tra l'altro sono donne anche che a casa loro poi fanno tante altre cose oltre la musica. È inutile sta a chiacchierare, insomma, sì, questo fa la differenza. Sì, la riflessione poi può essere in differenti ambiti, no? Chiaramente loro come donne capisco bene il perché, soprattutto in un continente come quello, e quindi voglio dire, meglio, ancora più figo, sì, la musica si riempie. Grandissime. Pare bella la cumbia, lei invece è proprio una reggaettara di solito, e quindi adesso dovevo un po' riappropriarmi dei miei spazi, ecco. Oh. Alika in Nuova Alianza. De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una gente para bailar. Hace ya un tiempo que yo llegué. Veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería. te veía. Vine a hablar de la vida en el barrio. Vine a contar todo lo que quería. Vine a buscar una gente para bailar. Hace ya un tiempo que yo llegué. Los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy pido al selecta un pitín de reggae. Para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow de esta mi rima danzante. Clandestina sin papeles, ilegal. Veía, vine a hablar de la vida en el barrio. Vine a contar todo lo que quería. Vine a buscar una fuente para bailar. De todo lo que veía. Vine a hablar de la vida en el barrio. Vine a contar todo lo que quería. Vine a buscar una fuente para bailar. Tú baila, que este sonido te mueve mente en calma. Pa' que lo busques de otra que prende el falla. Transita el ritmo de mi música, nueva alianza se encarga. Che dire, mi dispiace per il nostro ospite, dovrà sopportare del resto, diciamo, eh? Avete fatto fare un giro qua. Ma no, dai. No, quello non si sente, vieni qua. T'ho chiuso, ti ho escluso, non ti puoi lamentare. No, perché tra i due reggaetari ci sono due opinioni diverse rispetto a questo pezzo. Ma no, dai, è stata più una provocazione, dai. Diciamo che è un po', come dire, è una bella provocazione, insomma, fare un brano così, riarrangiarlo con questo ritmo particolare che va ascoltato, perché ecco, non è immediato, non arriva. Non è immediato, no. E soprattutto, però, guarda, io penso che comunque le melodie, come le parole, in qualche modo parlano, e anche se è un linguaggio forse non così diretto come il linguaggio a parole. Quindi alla fine più questa melodia riesce a circolare, io personalmente più sono felice, così insomma mi sembra una cosa positiva. Vabbè, comunque questa Sattamassa cumbia, diciamo, a me mi convince. Oh, poi ma convinto, sì sì, ma convinto pure a me, dai, dai. Vabbè, ma non è che mi dovete fare un favore, eh? Cioè io vado avanti uguale, che no, capito che mi fai tu, che ci stai provando, state provando a ricominciare da capo, qua siamo con Molex. Invece io mi rivado sempre più verso la cumbia, ci dirigiamo verso la chiusura. Ricordiamo che Profondo Rosa rimanda giovedì prossimo, non ci sarà per questo giovedì, così come non ci sarà il GR, ma questo capita un po' più spesso, ecco, diciamo, quindi non è, no, esattamente una sorpresa. Vabbè, GR più, GR meno. Salutiamo i profondi e le Profonde Rosa. E allora, che dire, io vado da uno dei padri, cumbia, musica colombiana, esportata in Messico e poi rismaneggiata veramente un po' in tutto il continente, veramente anche qui dall'Argentina al Messico. Però lui è il maestro dell'accordeon, Celso Piña, in questo caso aiutato da un po' di tecnologia, direi, Música, ¿por qué no se toca en vivo? Ahora toca en vivo. No, pues quién la va a tocar en vivo. Pues yo la voy a tocar, compadre. Probando, sí, y probando, ya está. Y ya hace 20 años. E poi prima se stava un trufolo a Marley, no? In mezzo alla selezione di Marta. Io prima che seguite questa trasmissione, visto che abbiamo Giacomazzo, io volevo fare anche insomma la domandina su Marley Cost to Cost, no? Che state architettando? Sì, e questo è un esperimento, uno dei tanti che i Percezione Sesto Senso fanno e faranno. È un concerto che noi faremo con On The Roots, che è un gruppo cover di Bob Marley e di Fiumicino, che sono dei nostri grandissimi amici, oltre ad essere un gran bel gruppo. E appunto noi faremo questo, sempre nell'onda del percorso, no, del viaggio di cui parlavamo prima, faremo questi due concerti dei Percezione Sesto Senso e delle On The Roots. Diciamo, iniziamo con due, poi speriamo siano di più, ecco, ovviamente. Però cost to cost, cioè ne faremo, per iniziare, uno sul Tirreno e uno sull'Adriatico, quindi uno da preparate. Uno dalle nostre parti e uno dalle vostre parti. Secondo me, se già cercate Marley Coast to Coast, qualcosa scappa fuori. Ecco, insomma, diciamo, ripercorreremo questo viaggio della musica reggae, quello che Marley ha creato e quello che 33 anni dopo la sua morte Marley ha, diciamo, generato nei noi musicisti reggae italiani e moderni. Ecco, insomma, questo viaggio un po' così. Senti, tutto questo più o meno quando succederà? Avete già una deadline? Sì, ci siamo, diciamo che ad agosto ci proporremo con questo Marley Coast to Coast e intanto cominceremo con queste due date e poi porteremo avanti il discorso in maniera, diciamo, speriamo più costruttiva. Quindi occhi aperti durante l'estate, sia che state su un mare sia che state sull'altro, non ve lo potete far scappare. No, no, assolutamente. Pure qualcosa della tarantella, A voglia. Eccoci qua dunque, Termia, anche questa. Anche questa l'abbiamo fatta, Marta, dai, era un po' che lo diciamo perché poi comunque ci incontriamo sempre tra la fine di Attica e l'inizio delle Schiene, quindi c'è un po' questo blend, nasce spontaneo spesso il giovedì, diciamo questa è stata una buona occasione. Ottima, allora io intanto faccio partire una sigla, poi ci sentiremo anche l'altra, intanto ci sopra ci faremo i saluti, ok? Dai. Italiano tiene che sapere che la cumbia è il futuro, così che... Pacto viscum donna. Pusimos toda la música tropical bajo un techo y le pusimos salsa. La Esquina del Sol. Effettivamente oggi va graziato che non ho messo salsa, perché infatti abbiamo notato. No, devo dire che quella comunque è veramente l'espressione. Dicevo Cuba, perché la salsa di Cuba è tutta particolare. Quando sono arrivati lì, hanno sterminato completamente, non è rimasto uno delle popolazioni autoctone. E quindi diciamo Cuba è proprio come un posto dove è stato tolto tutto, è stato rimesso da capo, insomma, e quella è un'enorme, appunto, è l'enorme espressione, certo, l'afrocubanità e poi la salsa. Comunque, detto questo, siamo in chiusura. Giacomazzo, ti sei divertito? Sì, è stata veramente una giornata bellissima, 2 ore e mezza abbondanti di buone vibes. E quindi quando ci sono le vibrazioni positive noi siamo sempre contenti. Appunto, io volevo ringraziare la radio, in particolare appunto Marta e Pietro, che insomma siete sempre così vicini alle nostre proposte. Ecco, anche perché, come dicevamo prima, ci deve essere sempre un buon motivo, diciamo una motivazione forte, che sia di ragione sociale, che abbia un messaggio positivo e appunto sempre avanti. Quindi grazie a tutti, alla radio, a voi e a tutti gli ascoltatori, tutti. Voi, mi raccomando, squisito. In gamba, un ragazzo squisito. Che bravi ragazzi, questi abruzzesi, mamma mia. Questi capelli un po' strani, Vabbè, che vuoi fare, capelli lunghi. Ma mai fermarsi alle apparenze. Sì. No. Mai. Dagli orsi ai rasta. Vabbè, niente, basta. Allora, Pietro, grande, dammi il 5. Bless, raga, questo vabbè. Oh, sì. Rimarranno, capiamo la grande. No, mi, ma poi è veramente stato interessante ripercorrere questo viaggio da una parte all'altra del mondo, questi ritmi, diciamo, che hanno la radice comune dell'Africa, perché poi alla fine gira che te rigira da quelle parti, ma sempre là se va a finire, capito? E allora, che dire, vi salutiamo, vi abbracciamo, io come sempre in particolare facciamo un saluto a Alberto, a tutte e tutti coloro che non possono godere della propria libertà, ciao e a giovedì prossimo. A giovedì prossimo, bella.